Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Vi aspetta un anno particolarmente riflessivo, cari amici arietini. Saturno frenerà gli eccessivi entusiasmi. Il 2016 sarà infatti l'anno del consolidamento. Molte coppie decideranno di mettere su casa o di avere un figlio, mentre chi è single troverà finalmente la persona giusta. Passo al segno della Vergine, cercherò di fare l'oroscopo considerando il segno solare ma anche l'ascendente, che ponga a 15 gradi, quindi ciò richiede molti più minuti rispetto a un oroscopo generalizzato solo sul sole. Il Capricorno avrà un anno stupendo perché usufruirà della presenza di Mercurio per 2 mesi nel suo segno, che inizia già nel 2015. Poi avrà 2 mesi nel Toro, che è la quinta casa, quindi la casa dell'amore, però in questo caso, per quanto riguarda i Capricorni, rappresenterà più che altro fare denaro attraverso l'arte. E poi naturalmente uno stellium potentissimo che inizierà il 31/7 fino all'8/10 nel segno della Vergine. Poi ecco, non vi scandalizzate e non dite che tradisco una mia antica tradizione di scetticismo parlando questa mattina di oroscopi, come sta facendo la maggior parte, la stragrande parte dei mezzi di informazione e di comunicazione. I quotidiani stanno già preparando il paginone con l'oroscopo e le previsioni per l'anno che verrà, assieme a quello con i bilanci dell'anno passato. I programmi televisivi stanno già preparando la notte con gli astrologi, ci saranno tutti, dal mago Telma a tutti quelli che normalmente vediamo in televisione, perché non scordiamo che anche da parte del servizio pubblico, che dovrebbe essere un faro di illuminata fiducia nella razionalità, esiste un ampissimo spazio anche quotidiano dedicato all'astrologia, in cui le persone confidano le guide e le linee guida per poter informare e condurre la loro giornata. Vedo già che mi fa segni di dissenso Morigi al di là del vetro, che dice: tu devi rimanere equanime. No, non posso rimanere equanime di fronte all'oroscopo, non posso far finta che a me interessi qualcosa o pensi in qualche maniera che se leggo la mattina sul giornale che il leone, che è il mio segno, avrà una fantastica giornata, esca pieno di ottimismo. Posso crederci, come tante volte uno crede alle chiacchiere che si sente fare dalle persone che accanto, come uno crede alle offerte di amicizia, alle dichiarazioni d'amore, agli attestati di stima. Uno crede anche la mattina a quello che vede scritto sul giornale, o crede al biscottino che apre della felicità cinese, delle frasi da dare che sembrano tracciare quello che sarà il percorso della nostra giornata, del nostro anno, della nostra vita sentimentale, della nostra vita professionale. Beh, visto che oggi anche di questo probabilmente si fa un cospicuo business, ci sono naturalmente un'editoria specializzata che di questo giustamente fa la sua ragione di profitto, ci sono persone che alcune dicono che sono studiosi importanti e quindi hanno le basi razionali concrete verificabili sul fatto che gli astri possano in qualche maniera, non dico determinare, gli antichi dicevano astera inclinant non determinant, quindi danno un'indicazione, poi sta a te vedere se prenderla o non prenderla, ma comunque ci sono delle maniere per leggere fra le infinite e possibili corrispondenze che ci sono fra tutto ciò che accade dentro di noi, attorno a noi c'è anche quella che magari le stelle mosse in una certa maniera, o perlomeno viste in una certa maniera, diano dei segnali ciò che accade nel resto dell'universo. Beh, detto questo, voglio subito iniziare con una prova pratica, visto che sono riuscito a menarmela avanti fino ai 15, che è il momento in cui devo dare la linea, quindi vi lascio senz'altro la suspense. Oggi avremo a confronto due persone, uno che naturalmente seriamente e concretamente, non è certo che il mago Telma, quelli che si mettono i turbanti in testa e guardano la sfera di cristallo, ma che uno che applica quelli che sono i dettami dell'astrologia a una sua attività editoriale. L'altro è un filosofo della scienza, è un inguaribile scettico di tutto ciò che non è razionalmente e scientificamente verificabile, che diranno la loro riguardo a questo problema. E al mezzo avrò una tenera, innocente, incolpevole cavia, una fanciulla che inizierà l'anno nuovo guardando il proprio oroscopo. A tra un istante. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. vi presenta Melog, cronache meridiane. Nel corso dell'anno, comunque, voi del Toro dovrete riuscire a sistemare molte questioni, o perlomeno a riorganizzare meglio alcune questioni e alcune situazioni. In questo video parlerò dell'uomo Toro e della donna Toro. Quelli del Toro in campo sessuale sono i focosi. Cominciamo con l'uomo Toro. Non fatevi ingannare, non è un amante tempestoso, possiede piuttosto forza e pazienza. Ci metterà il suo tempo per decidere che cosa vuole, ma poi non mollerà finché non l'abbia ottenuto. Le sue passioni sono lente, ma poi divampano. Per un po' potrà anche non mettervi bene a fuoco, ma quando vi avrà ben individuato... Onestamente, attenzione. Se un domani trovassi senza lavoro, se mi cacciassero da tutte le radio, da tutti i giornali del regno, so già quale sarà il mio lavoro: fare gli oroscopi. Ma non perché voglia portare via il lavoro a chi già lo fa, perché mi sembra una cosa così facile, onestamente. Mi sembra una merce così semplice da svendere, quella di dire a una persona l'uomo Toro, l'uomo focoso. Chiaramente poi non vi fate ingannare, perché potrebbe esserci anche qualche defaillance. Dire sempre tutto il contrario di tutto, estorcere a una persona particolari e informazioni subliminali sulla propria esistenza, sulla propria vita, sulle proprie inclinazioni, sui propri desideri, sulle proprie frustrazioni, sul proprio passato, su quello che immagina il proprio futuro, e propinarglieli immediatamente come se fosse la spremitura di una saggezza astrale che affonda le sue radici nella notte dei tempi. Beh, questo sarebbe sicuramente il mio lavoro. 800 24 00 24, se chiamate vi faccio l'oroscopo, ma c'è chi saprà farlo sicuramente meglio di me. Partiamo subito con la case history, con la nostra cavia, con il soggetto ideale, con la persona che sembra fatta apposta, geneticamente strutturata, nata proprio per essere il terminale ultimo di tutti i facitori di oroscopi, di tutti i somministratori di futuro facile o difficile, per tutti i costruttori di immaginari universi basati sulle influenze astrali. Buongiorno Margherita. Ciao, buongiorno, eccomi. Puoi condurre comunque una vita quasi normale, quindi non ti preoccupare di quello che ho detto prima, non ti lasciare condizionare. No, io guardando il 2015 ho notato di aver avuto un 2015 molto molto sfigato. Io ho 26 anni, vivo a Roma, una ragazza fidanzata, e volevo sapere, insomma, se... Di che segno sei? Di che segno sono sei? Toro. Toro, eh beh, Toro è chiaro. Leone. Beh, Toro con l'ascendente Leone non è stato un anno fortunato, ci sono state delle influenze che naturalmente hanno determinato questo momento di buio, ma si troverà la luce e si rischiarerà. I primi mesi di questo anno saranno molto diversi per te. Ah sì? Sicuramente. Meno male. Non avrò più la sfiga del 2015. Ecco, perché pensi di aver avuto sfiga? No, questo è veramente oggettivo. Mi hanno rubato due motorini, ho fatto un incidente in macchina, sono rimasta 3 volte chiusa fuori casa per errori altrui di notte. Mi sono fatta 2 volte male a un piede, prima al destro e poi al sinistro, e sono stata ferma 3 settimane. Mi hanno rubato il telefonino, il portafoglio, mi si è rotto il telefono, poi mi si è rotto il computer. Tutti i miei lavori non sono stati pagati o sono stati pagati di meno. E poi ho passato tutto il tempo in viaggio per vedere il mio ragazzo, che alla fine ho visto pochissimo quest'anno. Però c'era, quando arrivavi a c'era. Quando, t'aspettava. No, ultimamente quando arrivavo lui faceva tardi e neanche c'era. Era un po' distratto? Sì. Che segno è il tuo ragazzo? Sagittario. Ai ai ai ai ai ai ai. Ai ai ai ai ai ai ai. Marco Pesatori, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Marco come Pesatori stai? È uno serio, Marco Pesatori, lo dico subito, non l'avrei chiamato. È un astrologo, uno scrittore, da anni cura la rubrica di su Repubblica delle Donne, con orospo filosofico magico dadaista. Dall'89 cura la rubrica astrologica di Vogue Italia. Ha pubblicato recentemente Oroscopo 2016, Fabri Edizioni. Allora, Pesatori, Ti propongo subito questa giovane, tenera e sprovveduta fanciulla. Hai sentito quale sia il suo segno astrale, qual è quello del suo fidanzato. Dice che ha passato un anno sfigato. Corrisponde ai tuoi libroni del sapere, della saggezza astrologica, il fatto che per lei sia stato un 2015 impregnato di sfiga? No. Innanzitutto mi è piaciuta tantissimo la tua immagine del turbante e della palla di vetro. Questa è indimenticabile e rimarrà stampata nei miei cuori, diciamo, per anni. Ma io, guarda, se rimango senza lavoro, questo faccio. So solo chiacchierare, non so far altro. E io direi, Gianluca, che se mi fissi un appuntamento in settimana, io vengo senz'altro, perché ho 3-4 domande da farti, innanzitutto sul mio futuro amoroso, e quindi io direi che l'altro lavoro tu l'hai già trovato, perché ti sei mosso molto bene. E in effetti questa astrologia generica basata sui 12 segni ha una valenza di verità pari a poco più dello zero, quindi diciamo il 10%, cioè il povero toro, che poi non vuol dire niente, perché appena una persona ha superato, diciamo, un mesetto di letture astrologiche, sa bene che il segno non vuol dire proprio niente, solo la posizione del sole. Qui, in tutti gli esempi fantastici che abbiamo sentito prima di oroscopi, direi orrendi, che abbiamo sentito, sì, ma gente pagata per farlo, comunque piglia soldi per dire quelle cazzate. Beh, direi che a quel livello lì i soldi non li piglia nessuno. È come aver sentito dei chitarristi che studiano la chitarra da 3 mesi, insomma, dopo 3 mesi mettersi a confronto con Mick Jagger, con Keith Richards, la chitarra di Keith Richards, di Wes Montgomery o di Jimi Hendrix, beh, sarebbe una cosa ben pietosa. Ecco, eravamo, allora, facci sentire la tua chitarra, tu che diresti a Margherita? Andiamo al pratico. No, adesso a Margherita non direi proprio niente, perché ci vuole uno spartito. Ecco, allora, uno serio vuole i documenti, non è che ragiona così. Gianluca, lo spartito è il giorno, l'ora, la data, e quindi dire toro non significa proprio niente. Ricordiamoci che questa disciplina, per non dire scienza, ma io direi scienza, per non fare arrabbiare però troppo il professor Morici, io direi disciplina, questa disciplina è stata la disciplina centrale di tutto il Medioevo, di tutto il Rinascimento, amatissima da grandissimi filosofi come Marsilio Ficino, lo stesso Pico della Mirandola, che aveva scritto contro gli astrologi ma amava l'astrologia, come Giordano Bruno e come Dante Alighieri. Io direi che buttare questi personaggi nel cestino in nome di un illuminismo direi ampiamente in crisi, lo si vede, si vedono i risultati della nostra razio tutti intorno a noi. Ma dove la vedi la razza? Io vedo un'irrazionalità fantastica e dirompente. Da Harry Potter però, in poi, la gente ha ricominciato a pensare che esistono i centauri, le ninfe. Ma sono meglio i centauri che le mine antiuomo. Questo sì, è ma punto. Quelli sono sempre stati. Io sono convinto di una cosa. L'immaginazione, io penso che l'atteggiamento verso l'astrologia, se vogliamo alzare un po' il livello, sia quello che da parte dell'intelligenza e della cultura contemporanea sia quello di portare, ad esempio come Freud, la consapevolezza laddove domina l'inconscio. Fermo, schitarri sempre e non parla mai il filosofo della scienza. Stefano Morici, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Ecco, come vedi, è dirompente l'astrologia e sembra soffocare quel po' di razionalità. Dico come la penso io, dico che comunque esistono, non sempre certificabili, non sempre verificabili, delle corrispondenze in ogni cosa che si muove attorno a noi, in cui probabilmente può anche essere che l'astrologia, che è una meravigliosa filosofia e una meravigliosa metafora di rappresentare un'infinità di cose, possa anche in qualche maniera segnare dei punti che possono essere riconoscibili. Chi nasce in un certo periodo dell'anno, obiettivamente, a certe volte, ha delle similitudini di carattere e di comportamento. Questo è un dato innegabile, non so quanto abbia a che fare con l'astrologia. Ma rispetto alla domanda che faceva la nostra cavia, a cui daremo presto la parola, può esistere esattamente, dire, l'anno sfigato, l'anno felice, determinato da qualcosa che non sia semplicemente il proseguire di una serie di circostanze in cui noi ci troviamo al centro. Cioè esiste la sfiga, è spiegabile, misurabile, razionalizzabile, dando a questa delle motivazioni irrazionali, non certificabili, non verificabili. Guarda, io direi questo, partendo dalle considerazioni di Marco Pesatori sull'età della ragione. Ora, storicamente c'è stata l'avvento di un'età della ragione, chiamiamolo illuminismo, e poi quello che è venuto dopo, ma questo non significa che da quel momento in poi gli uomini sono diventati razionali. Che ne dica Aristotele, che quando afferma appunto che l'uomo è un animale razionale, noi sappiamo benissimo, le scienze ci raccontano, ci confermano che noi siamo tutt'altro che razionali. Scusami, che Stefano, mai... quasi interrompo. Si parla oggi nelle prime pagine dei giornali, oggi, questi giorni, di nuovi santi, cioè il santo in sé è l'antitesi della razionalità. Una persona che si decide che a un certo punto ha fatto miracoli e quindi, o adesso anche sempre meno, non è più importante nemmeno fare miracoli, diventa santo. Fantastico dal punto di vista della fede, ma di razionale non c'è nulla. Non c'è nulla in chi li fa, non c'è nulla in chi ci crede, voglio dire. La razionalità è comunque una conquista di un certo tipo di educazione che non si è stabilita con l'avvento dell'illuminismo. Noi siamo sempre disposti e continuiamo a essere quotidianamente esposti al rischio di credere a qualcosa che non sappiamo e che non conosciamo. Siamo fatti così, dobbiamo strutturarci culturalmente per non credere in ciò che non sappiamo, in ciò che non controlliamo. E aggiunto a questo c'è un aspetto esistenziale non trascurabile, il fatto che sappiamo più o meno coscientemente di essere gettati in un mondo di incertezze, di circostanze, di combinazioni. Cioè incertezze che non abbiamo gli strumenti per misurarle e per verificarle. Ma a dire la verità ci sono, perché... Allora cos'è la sfiga? Cosa dice? A Margherita che dice sono stata sfigata. Cosa rispondi? Cos'è la sfiga? La sfiga è un certo modo per interpretare alcuni fatti determinati dal caso, dalle condizioni della vita quotidiana. Esiste il calcolo delle probabilità, mi rendo conto che è un aspetto tecnico, che è un aspetto poco rassicurante, ma le leggi del caso sono le leggi studiate dal calcolo delle probabilità. Non c'è bisogno di arrivare alle stelle, o si può arrivare alle stelle, ma studiando anche quelle in un contesto più razionale. Ma questo non basta, ed è comprensibile che non basta, perché diciamolo chiaramente, la gente ha più bisogno di rassicurazione che di comprensione. Fermiamoci un istante, 800240024, tra poco sentiremo Margherita, la candida cavia, come si sente corroborata dalle parole Moriggi, sentiremo Segatori cosa dice della sfiga dal punto di vista astrologico. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Credete nell'astrologia, consulterete il vostro oroscopo, siete condizionati da quello che leggete la mattina nel giornale, a quello che vi dice l'amica scellerata, di solito zitella, che vi legge i tarocchi e vi dà foschi presagi su quelle che sono per voi le cose fondamentali. Guardate il biscottino cinese con dentro l'oroscopo e da quello vi lasciate condizionare. Siete comunque come delle foglie portate dal vento dell'irrazionale, o perlomeno ci date un'occhiata così ci fate una risata. Margherita, buongiorno. No, in merito al mio 2015, sì. Allora, e alla mia sfiga, c'è stato in particolare una quindicina di giorni che sono stati incredibili, perché sono stata derubata dal motorino, ho preso allora in prestito la macchina di mia madre, ha bucato la ruota, cioè io l'ho lasciata parcheggiata e l'ho ritrovata con la ruota. Ma c'è gente che viene amputata braccia e gambe, sì, non so. Sì, no, ma è una... infatti queste sono sfighe leggere. Ho bucata la ruota, il giorno dopo l'ho portata col carro attrezzi a casa, l'ho parcheggiata e mi hanno messo le ganasce perché non era parcheggiata bene, e quindi sono ritornata a prenderla con il carro attrezzi. Pensa che è stato travolto da un treno in corsa, cosa può pensare? Questa la chiami sfiga? Certo, questa è una sfiga, assolutamente. Io mi sono chiesta, ma cosa devo fare? Devo rimanere... Ma cosa era accaduto? Come ti sei data le spiegazioni? Allora, sono andata a vedere che cosa stava succedendo al mio oroscopo, sì. A quello mio personale, non a quello generico, cioè sì. Sono andata a vedere... Ma quindi tu hai il famoso spartito di cui parlava Pesatone? È molto semplice averlo, perché basta andare in un sito internet, scrivere i propri dati, il luogo in cui sei nata, l'ora... E si ha la mappa, insomma, del cielo quando si ha la mappa del cielo tua personale, e poi puoi vedere anche in quel particolare per me è impossibile che mia madre non mi ha mai detto l'ora in cui sono nato, sempre stata contraddittoria, ormai non ho più modo di chiederglielo, quindi non avrò mai una mappa del cielo. Comunque, no, vai. Io ho l'ora precisa e ho visto che effettivamente in quella settimana, in quei giorni lì, avevo Marte opposto a Mercurio. Ora io non mi intendo particolarmente di astrologia, però insomma so che Mercurio Mercurio contro, anche il film lo dice chiaro. No, c'era Ambrangiolini. Quella è Saturno. Ah, Saturno. Ah, pensa un po' quanto. Mercurio è per gli spostamenti, no? Sì. Ah, già, perché il dio con le ali e i piedi, sì. Esatto, e quindi insomma ho detto vabbè, dovevo partire, dovevo fare un viaggio lungo in macchina, ho controllato se Mercurio si toglieva. Ma faceva prima guardare il livello dell'olio, no? Vabbè, comunque. No, ho visto che poi avevo le stelle buone, insomma, che poi passava, ho detto vabbè. E quindi sei arrivato al tuo fidanzato e quindi? E poi siamo partiti ed è andato tutto bene, insomma. Una volta tanto. Se n'era andato via Marte da Mercurio. E cosa ti aspetti però, per l'anno nuovo? Però per l'anno nuovo cosa ti aspetti? Dall'anno nuovo vorrei sapere, io ho tanti progetti, vorrei sapere se andranno in porto. Sì, ma tu avrai già guardato tutte le mappe in internet possibili e immaginabili? No, ancora no. Questo ancora no, non ho avuto il tempo, ma ho avuto anche un po' paura a farlo, perché se mi dice male... Che fai? Se ti dice male parto che fai? Parto un po' scoraggiata, ecco. Così. Marco Pesatori, vorrei capire adesso, è diciamo il paziente tipico dell'astrologo Margherita, perché in fondo non chiede grande approfondimento, se è aggiornata su internet, quello che una volta era comprare i libri alla stazione con le mappe del cielo, più o meno sa le cose, ma vuole cose semplici, non credo che abbia voglia e tempo di passare molto tempo a studiare le sudate carte, quindi no, è impossibile però... darle una risposta semplificata. Sì, diciamo che Margherita appartiene al gruppo B. Il gruppo A è quello degli studiosi, diciamo impegnati, seri e con una base di cultura, che in Italia si riducono a 3 o 4. Di cui fai parte te, naturalmente. No, beh, io non tra questi, io devo stare al di qua sempre del bancone. Ah, quindi gruppo... dei pazienti che però studiano, come quelli che guardano l'enciclopedia a casa, c'hanno mal di testa. E pensano c'hanno un tumore. Il gruppo B a cui appartiene Margherita è quello degli appassionati, direi intelligenti, insomma hanno un certo interesse, ma che si ferma al campo della passione con una leggera dose di credulità. Ma la fetta più preoccupante è quella della fascia C, i malati di astrologia, quelli che sentono il signor Fix Fax in televisione tutte le mattine a dire delle stupidaggini. Sarebbe Mago Fox, sarebbe quello lì. Perché veramente con l'astrologia generica che si sente in tutte le salse non ha alcun fondo di verità, less than zero, diciamo, o 10%, questo va detto chiaramente. Cioè, però scusami, sono le normali probabilità, se io senza dire niente leggo i fondi dell'acqua minerale che ho versato sulla scrivania, dico domani sarà per te una giornata felice, c'è una buona possibilità che ci prenda, fine. Sì, beh, però non dobbiamo nemmeno avere di fronte all'astrologia e diciamo a queste cosiddette pseudoscienze un atteggiamento troppo superficiale, cioè dobbiamo porci il perché migliaia e migliaia di persone, non si può liquidare tutto con la credulità laddove e siamo c'è, d'accordo, non siamo so, d'accordo. Uno dei più grandi scrittori europei mondiali come Pessoa, che è un grande astrologo, o lo stesso Galileo che faceva gli oroscopi, o una valanga di personaggi importantissimi. E come te lo sei spiegato però te? Sulle corrispondenze che esistono comunque in ogni manifestazione fisica dell'universo, e quindi è una maniera di leggere delle corrispondenze? cos'è l'astrologia? Due punti in una riga. L'astrologia è la relazione studiata da centinaia e centinaia di anni che esiste tra il tempo, con la T maiuscola, letto attraverso le posizioni del cielo, tra il tempo e la vita, il bios. C'è un collegamento tra la vita e il tempo. La vita è ritmo, la vita è tempo, e il tempo è vita, e questo è il campo di studio dell'astrologia. Leggendo il tempo, l'astrologia studia e legge la vita. Ma io ti dirò, guarda, ci sono dei medici seri che conosco, di cui non faccio il nome, che stanno cominciando a classificare con un criterio scientifico alcune malattie in base al segno astrologico, e dicono che obiettivamente ci sono delle evidenze che li fanno pensare e li fanno ragionare. Certamente, ad esempio, chi è nato, chi ha molti valori in toro con delle quadrature, lì il problema è la gola, ad esempio, le corde vocali, uno per tutti, Freud, che è morto proprio di un tumore alla gola. E il leone come sta messo? Scusa. È collegato allo stomaco, però attenzione alle generalizzazioni. Intonti sta toccandosi gli attributi perché è cancro. Io che sono leone, scusami, ma poi per capire e prendere, usare al massimo questa trasmissione, quale sarà la roba di cui morirò, tanto così almeno me lo dice? Però è molto importante. Il leone è il segno famosissimo del cuore, dello slancio generoso, carico di energia. Quindi infarto, praticamente. La cosa su cui deve lavorare un po' chi ha tanti pianeti in leone, perché bisogna poi andare a vedere il tema personale, è proprio la circolazione, il movimento, la liberazione dell'energia. Ecco, non accumulare questa grande energia che ha il leone e che poi si manifesta con quello che Hillman chiamerebbe proprio una modalità di carattere cuor di leone, cioè di estrema generosità. Va bene, quindi bisogna trovare dei volontari che ti aiutino a liberare l'energia. Cosa deve fare Stefano Moriggi? Portiamoci un attimo al punto. Esiste una possibilità, non dico di verifica scientifica, ma di accettabilità da parte della scienza sul fatto che possano esistere delle chiavi di lettura, di corrispondenza, come dice appunto Pesatori, tra quello che è lo scorrere del tempo, che è tracciabile comunque attraverso la mappa del cielo, perché gli astri comunque sono verificabili nei loro spostamenti relativi rispetto al nostro punto di vista, e quello che è poi l'accadere dei fatti umani. Intanto mi veniva da dire che quell'atteggiamento, quell'attitudine cuor di leone, tradotte in termini, come posso dire, più laici o prosaici, potrebbe essere ipertensione. Io sono del leone, di recente ho scoperto di avere la pressione minima piuttosto alta. Stai messo male, non mi dispiace. Non so se c'è un nesso, ma non credo che tutti i leoni abbiano la pressione minima molto alta. Ciò a dire che dipende dai giorni, Stefano, sai com'è, uno salza la mattina, poi dipende dall'incontro. Beh, prendo anche la pastiglia adesso, in ogni caso. La pastiglina, così giovane la pastiglina. Ti mando subito a Nicoletta Carbone, dove anticipare lo spazio. Domani mattina sarò. Domani è la giornata della prostata, però. Siamo a posto per ora, sì. Quelle che un astrologo, per quanto serio, documentato e studioso, chiama corrispondenze, qui e da quest'altra parte del banco si chiamano coincidenze o ricorrenze, ma dal determinare delle ricorrenze, ricavarne delle ricadute sul tempo delle nostre esistenze, sugli accadimenti delle nostre esistenze, c'è quel salto che la scienza ancora, diciamo, fatica a fare, perché non ha le evidenze, i sostegni né empirici né teorici per poterci parlare e per poterne dare un credito. Interessante invece. Sennò si potrebbe prevedere addirittura gli eventi, al di là delle previsioni basate su evidenze scientifiche, se avessimo questa chiave di lettura delle volte celesti, come pensavano di avere gli antichi, le antiche scienze sacre, la magia, la teurgia, tutte le necromanzie possibili e immaginabili, avremmo la chiave di lettura degli eventi futuri, ammazzeremo quell'equazione del tempo che ci condiziona così tanto, che ci dà un passato, un presente, un futuro. L'avremmo. Però abbiamo visto che la scienza ha mostrato che tutte queste corrispondenze, così come ancora il Rinascimento immaginava ci fossero, non ci sono. Un grande poeta come Leopardi, che nei suoi versi ha saputo condensare la sapienza della scienza moderna, è il grande poeta che ci racconta che negli astri, tantomeno la luna, gli rispondono più perché sono silenti, perché lui non è più il centro del mondo e perché il mondo non è lì attento alle sue, ai suoi fatti quotidiani e alla sua esistenza più o meno travagliata. Però una cosa non mi ha risposto, Stefano. L'opposizione che fa Pesatore, grandi uomini di scienza, indubbiamente Galileo, Giordano Bruno, comunque hanno dato una parte di seguito a questo lato oscuro della scienza, questa prescienza, questa sorta di scienza però priva di tutti gli elementi che oggi fanno un fatto scientifico, un fatto certificato. Allora, su questo bisogna essere molto chiari e far molta chiarezza. Galileo faceva gli oroscopi per, scusa il gioco di parole, ma per sbarcare il lunario, cioè per arrotondare uno stipendio. Come farò io quando mi licenzio? Esatto. Quindi, essendo un grande conoscitore di stelle e conoscendo, diciamo così, la credibilità che all'epoca l'astrologia aveva, perché ce l'aveva, la scienza moderna stava nascendo, un po' ci marciava, ma possiamo anche immaginare che una qualche, come dire, attenzione ce l'avesse, faceva anche i temestrali alle figlie, per cui in qualche modo non è scandaloso questo. Galileo, Giordano Bruno, ancora di più Tommaso Campanella, erano figure che vivevano e hanno vissuto, ciascuno di loro, in un contesto in cui l'astrologia era effettivamente ancora percepita come una disciplina affidabile. Poi è nata la scienza moderna e ha progressivamente decostruito quelle che prima erano certezze, rendendo le corrispondenze sempre più delle coincidenze. Fermiamoci un istante, a tra poco, dopo il traffico, 800240024. Questa mattina vi vedo molto silenti, evidentemente questa è la mattina della digestione ancora del pranzo di Natale o della cena di Natale e della preparazione e del relax per la buffata di fine d'anno. A tra poco. Melog, cronache meridiane. .800240024, stiamo cercando di tracciare un punto mediano di possibilità di accettazione e di felice condivisione tra quello che è il principio razionale del credere nell'influenza degli astri, quella che è la scienza che crede soltanto in ciò che sia verificabile. Abbiamo come punto di interesse, come punto di studio rispetto alle due posizioni di Marco Pesatori, che è un astrologo e scrittore nota alla sua rubrica su Repubblica, e Stefano Moriggi, che è un indefesso filosofo della scienza, che crede nella scienza. Abbiamo Margherita. Margherita è una persona che svolge una vita senza nessun problema di scelte, perché è una donna autonoma, che però è molto influenzata da quello che potrebbe essere una lettura degli astri rispetto a alcune sue vicende. Ha passato un anno, come ci ha detto, intensamente sfigato, e si aspetta un anno come te lo aspetti, Margherita? Ma vorrei che poter realizzare tutte le mie aspettative lavorative, soprattutto. Cioè, vorresti un lavoro finalmente? Sì, ce l'ho, ma vorrei che, insomma, all'interno di questo lavoro si concretizzassero una serie di mie iniziative, di miei desideri. E poi vorrei passare più tempo con il mio fidanzato. Che non capisco questa tua distanza. Quindi vuoi distruggere la tua storia d'amore e dedicarti al lavoro? Sì, esatto. Bene. Non sono due pretese così. Ecco, allora, così alte, Marco, insomma. Pesatori. Queste due, che sono le banalissime richieste, fa ognuno che si mette davanti a un mazzo di carte o a un qualcuno potrebbe dirgli il suo futuro, amore, lavoro e salute, poi mettiamoci anche salute, Margherita è giovane e sta in salute, ancora non si pone il problema della salute, quindi vuol sapere se troverà finalmente un lavoro e se quel fidanzatino sporadico e saltuario che ogni tanto dedica attenzione una volta ogni qualche mese può concretizzarsi un amore, ma sa già bene che la risposta è data da solo. Se diventasse una frequentazione più assidua, naturalmente evaporerebbe come neve al sole. Tu fino a che livello di profondità, avendoci gli elementi, potresti dare a lei delle risposte? La vera postura, adesso possiamo noi fare un'astrologia generica, simpatica, sciocca, silly, sui segni generici, quindi dire che il toro proprio ha bisogno di è un carattere concreto, realista, quindi il lavoro è fondamentale, molto di più che per un cancrino che vive di coccoline, e molto di più. Allora, il cancro sta in famiglia fino a tempo indefesso, quindi o trova sempre una vice mamma, esatto, quindi ecco, non c'è problema. Possiamo scivolare, oppure parlare seriamente della postura, di in che modo si deve posizionare un esperto, uno studioso di astrologia che vuol dare ascolto a Margherita. La prima cosa da fare è l'ascolto, ascoltare Margherita, capire bene il perché di quel momento di nervosismo, di tensione che ha avuto, e fargli buttare fuori la rabbia che aveva dentro. Ma non può andare dallo psicologo per farsi dire questo, uno psicanalista, ci sono uno psichiatra. Qui sono adesso, psicanalisti un po' meno, ma ci credo un po'. Non consiglio di andare dagli astrologi, certamente, perché in Italia, dove culturalmente siamo parecchio indietro, ma non c'è ad esempio una scuola, non c'è, mentre il lavoro, il cammino faticoso che deve fare ad esempio uno psicanalista per avere a che fare con l'altro comporta appunto anni di studio e anche di analisi di sé. Come hai detto tu, Gianluca, te domani mattina quando perdi il lavoro ti metti a fare l'astrologo. Basta avere un po' la faccia come il culo, diciamocelo chiaro, semplice. Sì. Molti hanno la faccia proprio come dici te, molti, ecco, quindi ci vuole molta pazienza, umiltà, silenzio e ascoltare Margherita con l'obiettivo non tanto di predirgli il futuro, perché nessuno possiede, nemmeno la meteorologia, devo dire, io farei una bella partita tra astrologia e meteorologia e penso che vinca nettamente l'astrologia come precisione delle previsioni, ma il compito dell'astrologia non è prevedere il futuro, il compito dell'astrologia, che la chiameremo proprio una scienza contemporanea, anche in relazione alle recenti conquiste sempre più evidenti della fisica quantistica, i concetti che ho tirato fuori prima sul tempo, poi la località, quello che Morici chiama le coincidenze e che Jung chiamava i fattori sincronici, beh, è un fatto evidentissimo adesso che viene proprio studiato dalla fisica più attuale, no? Ma da un punto di vista proprio umano, la prima cosa da fare con Margherita è ascoltarla, quindi non fare come i malati di astrologia che prendono l'astrologia alla lettera, è come se tutti stessero sul cartello di San Francisco pensando che sia San Francisco, il cartello non è la realtà, San Francisco è da un'altra parte, quindi i malati di astrologia che stanno a studiare le stelle studiano il dito e non la luna, prima c'è Margherita, questo lo diceva già il grande Tolomeo nel 100 d.C., prima c'è l'analisi della realtà, dell'ambiente, dei fatti, della concretezza, della materialità delle cose, quindi prima viene Margherita e dopo arriva il tema natale di Margherita, dopo si va sull'astrologico, dopo se ne parla, ma prima bisogna capire bene chi è Margherita, cosa vuole e perché l'anno scorso è stata così nervosetta. Poi gli diremo anche, eventualmente, che il toro, ma lì bisogna verificarlo sul giorno, il toro è uno dei segni più fortunati di questo 2016, tanto per concedere, come dire, un 3 secondi all'astrologia più sciocca. Quindi lei già lo sa, già si aspetta qualcosa di meglio, già sa che è nervosetta perché c'è il fidanzato lontano e quindi quando uno è nervoso si dimentica le chiavi della macchina, lascia il motorino senza chiuderlo per bene, quindi glielo rubano e più glielo rubano più si arrabbia più fa cavolate e quindi naturalmente si dà una spiegazione a questo. Stefano Moriggi. Sì. No, rispetto a questa diciamo dichiarazione ormai spassionata di Pesatori, che alla fine l'astrologo non prevede niente, il vero bravo astrologo semplicemente è uno psicologo con degli strumenti più folcloristici, più divertenti, più emozionanti rispetto alle banali categorie che si usa, non so, che usava una volta la psicanalisi, ammesso che ancora qualcuno ci creda. Su questo io sono molto d'accordo, oltretutto riconosco a Marco una grande capacità introspettiva, una profonda dote nell'ascolto delle persone e il bisogno di essere ascoltate di essere ascoltati è molto diffuso, di essere prima ascoltati, poi compresi e conseguentemente sostenuti e giustificati nelle scelte che sono state fatte, perché sono state fatte in un certo modo, e in quelle che si faranno, perché le si faranno in un certo modo. Torniamo all'argomento di partenza, cioè qua c'è una distinzione da fare tra comprendere il mondo per quello che è, e questo lo fa la scienza, ma comprendere anche il mondo per come le persone se lo vogliono e hanno bisogno di rappresentarselo, e questo lo fa certo la psicologia secondo protocolli ormai scientificamente stabiliti, ma può farlo anche come forma di sostegno psicologico anche l'astrologia, così come ben la pratica Marco Pesatori e come in maniera più cialtronesca altri la fanno nelle trasmissioni sulla fine dell'anno o altre cose del genere. Sono due cose diverse. Un grande filosofo come Adorno scrisse un libro per molti versi discutibile, ma certamente interessante, tradotto in italiano col titolo Stelle su misura, in cui prendeva in esame la rubrica americana di oroscopi e indagava il come e il perché all'interno della cultura di massa statunitense la gente, pur non credendoci, aveva bisogno di rivolgersi agli astrologi o comunque traeva in qualche modo profitto da quello che gli astrologi, in maniera cialtronesca, diremmo i Pesatori in questo caso, scrivevano quotidianamente su quella rubrica. Però vedi Stefano, esattamente come le persone che si convertono proprio in articolo mortis, quando proprio cercano subito e immediatamente si accorgono che forse la presenza di un mondo metafisico li conforta nel terrore disperante della fine biologica, nei momenti in cui noi abbiamo comunque delle circostanze quotidiane, delusioni, paure, affezioni, terrore di malattie, scomparse, lutti, via dicendo, è chiaro che ci abbiamo bisogno di piccoli lembi che umanamente ci diano qualcosa che nella sua inconoscibilità, inverificabilità, ci dia la speranza. Assolutamente sì, e devono essere, come dici tu, inconoscibili e inverificabili, altrimenti viene meno la componente della speranza. Un grande filosofo come Sartre parlava molto spesso di quella forma di autoinganno che lui chiamava malafede, e in una bellissima pagina dell'Essere e il Nulla scriveva: il primo atto di malafede lo si compie per fuggire da ciò che non si può fuggire, cioè da ciò che si è. L'autoinganno è una forma di rassicurazione, di consolazione, di sostegno nel momento della difficoltà, quando la nostra verità è troppo forte per essere sostenuta, quando in generale la consapevolezza più o meno evidente di vivere in un mondo di incertezze e di fragilità ha bisogno di qualcos'altro. C'è chi ha la forza di guardare la realtà nelle sue incertezze, nei suoi imprevisti, c'è chi invece ha bisogno di sostegni di varia natura, alcuni perfino sconfinando nell'irrazionale, tenendo conto noi che noi siamo profondamente irrazionali e che la regola nostra è l'irrazionalità, e la razionalità è l'eccezione a cui dovremmo sempre più educarci, ma rimane comunque un'eccezione nelle 24 ore della giornata e non la regola dei nostri comportamenti. Infatti la fatica improba di ognuno di noi è educarsi a delle regole di razionalità, perché il nostro spirito, per quanto noi vogliamo sembrare persone aperte, moderne, razionali e che se ne ridono di queste sciocchezze, è interpretare paurosi come fossimo uomini che ancora vivono in delle caverne i segni della natura intorno a noi, cercare di interpretarli, di capirli, dal gatto nero ci attraversa la strada, alla persona antipatica che incontriamo, alle corrispondenze, quel giorno incontrai quella persona che aveva quel vestito, mi accadde quella cosa e quindi ancora mi accadrà. Vi lascerò con questo amletico dubbio di quello che accadrà nel vostro futuro, nell'anno a venire, perché questa non era una trasmissione che dava conforto a coloro che cercano nell'oroscopo il conforto per la loro esistenza. Alla prossima!